lunga. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. La mia protesta pare ben sì che la prostituzione diventi un normale lavoro, come tanti altri lavori, che le persone che lavorano come me possono dare una mano all'Italia che soffre, che cade a pezzi ogni giorno, potendo pagare le tasse, essere una persona normale. Quando ti fermano ti chiedono: ma lei ha la partita IVA, paga? Tu dici sì. So che vi sembrerà scioccante, ma riprendiamo dopo il lunedì dell'Angelo a parlare di italiani puttanieri. Sì, perché è pronta una commissione, una task force bipartisan di 70 parlamentari tra deputati e senatori. Domani presenterà una sorta di manifesto in cui viene presentata come urgente la riforma della legge Merlin. Perché questo? Perché è inutile prenderci in giro, è inutile ammantarsi di buoni principi, di superiori visioni spirituali ed etiche. Gli italiani sono puttanieri. Oggi su Repubblica c'è una pagina che è mirabile nella sintesi dei suoi specchietti, in cui si dice che in realtà in Italia ci sono 70.000 prostitute, di cui, diciamo, ce ne sono una percentuale altissima, il 20%, che sono minorenni. Lavorano soprattutto per strada e in parte anche a casa, negli alberghi, quelle che voi dite, le prostitute legalizzate, che basta cercare escort su un motore di ricerca e ve la trovate anche sotto casa vostra, vedete la foto e sentite quanto vuole, cosa fa, e addirittura una specie di trip advisor degli altri clienti che dicono come è andata la prestazione. Sono 9 milioni gli italiani che frequentano le prostitute e esattamente il loro giro d'affari muove una cifra che va fra i 2,2 e 5,6 miliardi di euro. Quindi, secondo me, c'è caso che qualcuno possa metterci mano. È inutile illudersi che poi le prostitute possano in questo regime pagare le tasse, regime di ipocrisia, regime che aleggia tra il divertito, il salace, il lezioso, il pecoreccio. Di quando si parla di prostituzione legalizzata, immediatamente ci sono le foto sui giornali delle escort in reggi calze che si affacciano al finestrino delle auto e subito tutti si danno di gomito e ridono. Ma ricordo, sono 9 milioni gli italiani che vanno a prostitute, 9 milioni di baionette che comunque in qualche maniera devono essere regolamentati. Non può essere qualcosa che passa così, come se fosse un fenomeno sotterraneo, che sono pochi, sono dei depravati, sono tutti padri di famiglia, sono brave, rispettabili persone che comunque vanno a prostitute. Perché ci vadano, qual è il motivo per cui ci vadano, non è una cosa che a noi interessa il fatto che esistono. Il caso che probabilmente è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso di fronte a questa necessità comunque di mettere mano su una legge, inutile fare gli ipocriti, inutile dire che è una brutta cosa andare a puttane, che c'è un grande mercato orrendo dietro, perché basta entrare in qualsiasi città d'Italia, qualunque ora del giorno, e sono lì per strada. Se adesso entrate a Roma, lungo la via Salaria, vedrete delle minorenni che battono lungo la strada. Vedrete, il minorenne batte lungo la strada, ma non ci si fa caso, ci si passa sopra, si immagina che forse appartenga ad altri il problema. Il caso che dico ha scatenato questa mattina il dibattito è quello di Lady Pantera. Lady Pantera, detta anche il trans dei VIP, ha avuto una sentenza a favore data dalla commissione tributaria contro l'agenzia delle entrate, che aveva detto doveva pagare le tasse sul suo tesoretto di 343.000 euro. Lei risultava disoccupata, anche se faceva tranquillamente il mestiere di escort, e hanno trovato che in banca aveva 343.000 euro. L'agenzia delle entrate ha detto devi pagarci le tasse, ha detto su quale lavoro devo pagarci le tasse, gli hanno dato ragione, non deve pagare le tasse. Dite, vedete quanti soldi aveva messo da parte? Questi soldi l'ha messa a parte tra il 2007 e il 2012, quindi sono, mi sembra, 5 anni circa, in cui si è sciroppata qualcosa come, mi sembra, aspetti, adesso c'è scritto qua, 10.000 uomini, una cosa così, fate il 40.000 uomini, ecco, 40.000 uomini in 5 anni per mettere da parte 70.000 euro all'anno. Voi pensate, una media di 10.000 uomini all'anno per mettere da parte 70.000 euro, pensate di fare voi 10.000 riunioni o accomodare 10.000 lavandini che non funzionano se faceste l'idraulico. Beh, questo è comunque un'attività che va regolamentata. Questa mattina voglio non prenderla a ridere, non prenderla sulla facezza, non sentire il parere degli italiani che diranno io ci vado e non ci vado, le mogli che dicono è meglio che ci vadano, è meglio che non ci vadano. Se esiste un gruppo di parlamentari che ha deciso di prendere di petto questo problema, senza scherzi, senza facezze, senza ideologismi alle spalle, voglio stamattina dargli voce. Senatrice Maria Spilabotte, buongiorno. Buongiorno al dottor Nicoletti e complimenti per l'introduzione, veramente ha fatto un quadro serio della situazione e non si parla di questo argomento come se stessimo al bar dello sposta, ha perfettamente ragione. La senatrice Spilabotte è vicepresidente della Commissione Permanente Lavoro e Previdenza Sociale, assieme ad altri colleghi, domani presenterà questa sorta di documento, assieme a lei c'era Pierpaolo Vargio che è presidente della Commissione Sanità della Camera, sono tutti personaggi seri, austeri, persone che si occupano di grossi problemi, non sono i soliti parlamentari che fanno una butade tanto per far parlare di loro, e questo mi fa sì che vorrei averne qualche notizia in più su questo. Lei immagina che la prima opposizione che le faranno è di tipo etico e morale, come uno Stato che protegge le prostitute, cos'è uno Stato pappone? Diciamo che si può obiettare subito alla definizione di Stato pappone. Quando lo Stato tramite Equitalia manda la cartella esattoriale ad Efebal o all'Edi Pantera, che cosa fa? È veramente lo Stato pappone che chiede soldi sul loro lavoro di prostitute, però non dà loro nessun diritto, nessuna forma di tutela, di previdenza sociale. Questo mi sembra che sia lo Stato pappone, uno Stato che invece riconosce dei diritti, pensa di far lavorare le persone in maniera dignitosa e chiede loro anche, perché no, dei doveri, è uno Stato emancipato, uno Stato democratico, quindi non credo che su scelte di tipo sessuale o su scelte che riguardano l'uso o l'utilizzo del proprio corpo, insomma, ci possa essere una sovradeterminazione. Mi dice come è costituito questo gruppo di parlamentari? Avete fra di voi anche rappresentanti della cosiddetta area confessionale, sono i primi a stracciarsi le vesti, anche se poi le puttane ce l'hanno sotto il sagrato della Chiesa. Ce l'hanno anche dentro, guardi. A Taranto hanno scoperto orge di preti l'altro ieri, quindi tutte le fanno, però da questo punto di vista vorrei capire come è costituito questo gruppo di parlamentari. Sì, ma allora io ho presentato il primo disegno di legge di questa legislatura, il testo è un atto Senato 1201, l'ho presentato l'anno scorso in tempi non sospetti, quando ancora non si parlava nemmeno dello zoning romano. Poi nel corso degli anni di questa legislatura si sono aggiunti altri parlamentari che hanno ritenuto di dover regolamentare un fenomeno sociale di enorme portata, lo ha detto lei, i dati li ha citati tutti, 9 milioni di clienti significa che uno su tre, i nostri mariti, i nostri fidanzati, i nostri compagni, un italiano su tre va a puttane, è inutile far finta di niente. Certo, assolutamente, e poi insomma ci sono delle cose veramente spiacevoli legate al mercato della prostituzione, quindi c'è gente, parlamentari che sono legislatori, siamo chiamati a legiferare su alcune materie, hanno ritenuto che su questo tema non si debba andare alla deriva, ma si debbano dare delle regole. Io non sono nemmeno d'accordo che sia la magistratura sempre a intervenire per definire i casi, come l'utilizzo della pillola del giorno dopo, la fecondazione eterologa, l'utilizzo delle cellule staminali. Ma lei lo sa che sta pronunciando una violenta blasfemia, perché lei sta dicendo che non deve essere. Ma io sono stata anche scomunicata direttamente in chiesa dal mio parroco, quindi se guarda notizie su internet lo saprà, insomma una caduta di stile. Comunque il fatto che sia una donna che si fa portavoce di questo toglie anche fuga l'idea che sia una proposta legge biecamente maschilista che voglia favorire gli uomini. Certo, in questi numeri le dico, onorevole, lei sa meglio di me che ci sono 26.000 schiave, persone che fanno parte di una tratta di schiave, che non scelgono. Infatti la ratio di questa legge parte proprio dal dallo scopo di salvaguardare le donne che questo lavoro non lo vogliono fare, che invece alimentano un mercato clandestino. Lei deve sapere che in questo paese, proprio nelle more di questa deregulation, vengono ad investire 60 cartelli malavitosi di tutto il mondo, che portano qui prostitute, schiave, che non si libereranno mai dalla loro... Siamo diventati il paradiso fiscale dei papponi di tutto il mondo. Assolutamente, tutta quella... Ferma un attimo, scusi onorevole, Silvana, prima ascoltatrice, voglio far entrare nel dibattito il punto di vista di qualcuno che ci ascolta. Silvana, buongiorno. Buongiorno, dottor Antonelli. Senta, no, io questa cosa... Le fa ridere a lei? Sì, no, non mi viene sempre a ridere, l'altra volta mi veniva a piangere, quindi... Oggi mi viene a ridere, nel senso che vabbè, insomma, è una cosa che ho sullo stomaco da un po' di tempo. Da quando ho sentito questa cosa qua della tassazione, delle prostitute, cioè è una cosa che viaggia da tempo, non è mica dell'altro giorno. Però di come si è messa di pesante questa cosa per tutte le varie situazioni, dico solo una cosa: veramente fra un po' ci verranno a pesare la cacca quando la facciamo. Delle ma che mie c'entra? Cose, no, scusi, del no. mio corpo, io non so, no, del che mio corpo. Scusi, non vuoi capire il nesso? Sto facendo una trasmissione, non vorrei perderti il tempo. Se hai qualcosa da dire di intelligente, lo dica. Dichiarazioni astratte. Non lo so se è intelligente. No, non è intelligente. Però non voglio tasse sulle mie cose, sulle mie personali, del mio corpo, dei miei. Sì, però non possono esistere. No, sì, signora, ho capito. Io ne faccio quello che voglio okay, delle mie cose. Sì, ma anche io del mio cervello ne faccio quello che voglio, ma se scrivo un pezzo o parlo con la radio, giustamente ho un compenso e devo denunciarlo alle tasse. Se lei questo compenso lo ha con il sudore del suo basso ventre, è giusto che anche su quello paghi le tasse. Luca, buongiorno. Sì, buongiorno. Senta, io le faccio perdere solo un secondo. Perché la mia era una battuta praticamente, perché non so se il presentatore si è reso conto nell'introduzione, insomma, dicendo che io sarei il presentatore. Sì, chiaramente. Sì, cioè, se non so, allegria. Io ho 200.000 euro evasi al fisco e il fisco viene da me a chiedermi da dove arrivano questi soldi. Lei dice, ho dato via al posteriore, perché questo è il mio mestiere. Lei ha dato un'idea di come siamo messi, cioè noi, io potrei dire quello che lei ha detto all'inizio della trasmissione. Certo, giustamente, è lecito. Non posso dire nulla, questa è l'assurdità più, senza aver poi fatto nulla di quello che insomma... Senatrice, senatrice Maria Spilabotte, il paradosso è l'ultimo ascoltatore, però non è privo di senso. Appoggiando su questa sentenza, ognuno che ha un tesoretto nascosto sotto il mattone o in un conto in banca potrebbe dire, è frutto della mia attività di prostituta o prostituto. Appunto, a maggior ragione c'è bisogno di stabilire delle regole e di riconoscere questa come un'attività produttiva come tante altre, solamente per chi decide di farlo di propria sponte, poi va contrastata con qualunque mezzo, guardi anche con la bomba atomica, il fenomeno della tratta. Ma cosa proponete voi? Una categoria professionale, cioè come fosse l'ordine delle prostitute? Certo, l'iscrizione alla Camera di Commercio, l'apertura di una partita IVA, la possibilità di costituire una cooperativa. Oggi questo non è possibile perché nella legge... Ma anche l'INPS, anche diciamo avere una previdenza. Certo, come avviene per qualunque... Sì, ma per la fatturazione, come la mettiamo con la fatturazione? Il cliente difficilmente accetterà comunque di essere in qualche maniera tracciato. Nel mio disegno di legge è previsto un pagamento fisso anticipato di circa 6 o 12 mila euro a seconda che si lavori part time o full time, proprio per evitare questo problema. Però guardi, quando si lavora in cooperativa, poi anche il fatto della fatturazione, tutti hanno l'interesse a stare nelle regole, tutti hanno interesse a poter avere un conto in banca, a potersi comprare una macchina e dimostrare un appartamento. Quindi trasparenza, l'unico aspetto forse lievemente da studiare meglio è la trasparenza dal punto di vista del cliente, che è un'attività che ancora nella maggior parte dei casi non è che viene svolta sotto la luce del sole, sempre clandestino o nella maggior parte dei casi clandestino. Occorrerà pensare, ma ce lo dirà esattamente fra un istante dopo le informazioni del traffico, come anche il cliente che a questo punto è parte di un meccanismo riconosciuto istituzionalmente, fiscalmente funzionante, potrà svolgere la sua attività di cliente di prostituta senza che necessariamente debba essere identificato. Cronache meridiane. .800 24 0024, anticipiamo quello che accadrà domani, quando 70 parlamentari bipartisan presenteranno un documento che richiede la revisione della legge Merlin, argomento tabù, argomento intoccabile, argomento che è sempre stato celato e nascosto da imbarazzi, da rossori, da prese di posizioni ideologiche, ma è il momento di mettere mano a quello che è un fenomeno che investe almeno 9 milioni di italiani. Un italiano su 3 va a puttane, è inutile che ci stracciamo le vesti, e su questo comunque occorre prendere delle decisioni. Mavi, buongiorno, veloce. Buongiorno. Allora, ma ridete tutte, vi fa tanto ridere a voi donne, beate voi. Pronta? Sì, no, ridete tutte, vi vedo tutte allegre su questo argomento, mi fa piacere. No, non mi rallegra, mi rallegra il fatto che sia stata presentata una legge. No, ancora tanto, poi... è un documento, io ancora vorrò vedere una legge in Italia seria, laica, concreta che e non inquinata. Subito, certo, sì, lo so, purtroppo. Ma infatti volevo far sentire la mia voce anche su questo, in quanto... Io sono del periodo della lotta delle donne, perché ho 67 anni, per cui ho vissuto 68. Ecco, e sono profondamente scandalizzata dal fatto che possa esserci una prostituzione che non viene regolata. Ci sono schiave di cui non sappiamo neanche l'esistenza. Ci sono anche donne che scelgono di farle prostitute e che però devono dare i loro proventi a un magnaccia tutto di nascosto, non possono avere un'assistenza, non hanno, cioè, lo trovo incivile. Ecco, diciamo Mavi, che sono cambiate molte cose ai tempi della legge Merlin. La senatrice Merlin mise le mani su qualcosa che veniva visto come retaggio del passato regime fascista, qualcosa che ancora rammantato di retorica ducesca, gli italiani che andavano al casino, le case chiuse, la maîtresse, la flanella, le tariffe, sembrava qualcosa appartenesse al passato. Oggi il mondo si è evoluto, una persona può prostituirsi anche senza avere un magnaccio, oggi c'è internet, ci sono possibilità infinite comunque di mettersi in contatto fra chi gestisce e fornisce il servizio e chi lo riceve. Quindi è giusto che anche la legge si adegui, non faccia finta che il fenomeno non c'è. Avevo al telefono la senatrice Maria Spilabotte del PD, che è vicepresidente della Commissione Permanente Lavoro e Previdenza Sociale. Vediamo di entrare un pochino nello specifico. In sintesi estrema, cosa vorreste che accada? Allora, noi vorremmo innanzitutto che si cominci a parlare. Innanzitutto che non ci sia un atteggiamento criminalizzante nei confronti della prostituzione, che quindi la prostituzione venga considerata reato, perché questo è un paese di forte matrice cattolica e un paese in cui tante volte quello che viene considerato immorale, quindi un peccato, di conseguenza viene considerato anche un reato. Quindi noi non vorremmo mai che accadesse questo, vorremmo una regolamentazione che ci consenta di far emergere il nero, il clandestino che c'è di questo fenomeno, contrastare fortemente il fenomeno della tratta e tutelare anche il diritto di cittadinanza dei cittadini che non vogliono vedersi più davanti casa donne nude a tutte le ore del giorno, del mattino, vicino alle scuole, nei parchi pubblici, perché il diritto di cittadinanza loro va egualmente tutelato come tutti gli altri. Alle donne che vogliono prostituirsi per libera scelta va riconosciuto il diritto e insieme al diritto tutti i doveri. Ne possiamo discutere, ci sono adesso 12 testi di legge depositati, ne discutiamo, vediamo quale sia la forma migliore. Io non credo di avere la verità in tasca, però posso dire che il mio disegno di legge è stato l'unico che è stato presentato dopo aver sentito le parti in causa, dopo aver sentito tutte le persone che vivono il problema. Senatrice Spilabotte, qual è invece in sintesi la maggiore opposizione che le viene fatta in ambito parlamentare? Io mi aspetto di vedere un domani il presidente Renzi che dice: benissimo, questa è una legge che il governo approva, su cui ci mettiamo, diciamo, la nostra faccia. In Italia mai più prostituzione clandestina. Avverrà qualcosa del genere? La maggior parte delle obiezioni che mi vengono fatte sono quelle dello Stato pappone. Dire che una prostituta debba pagare le tasse vuol dire che lo Stato sfrutta le donne, ma insomma ho già obiettato all'inizio del mio intervento a questa cosa. E poi mi viene obiettato da una parte del mondo femminista, che ha fatto le lotte per la conquista di importanti diritti per le donne, che diciamo la prostituzione è considerata un abuso e una violenza sulla donna e per questo deve essere criminalizzata. Scusi, ma se è una libera scelta, una donna non ha diritto di farsela pagare quanto vuole da chiunque. Credo che ci sia da parte di queste persone un atteggiamento diciamo poco congruo rispetto alle lotte nel passato che si sono fatte, in cui si diceva il corpo è mio, lo gestisco. Sì, però diciamo io. Che anche le prese di posizione ideologiche vanno adeguate con i tempi, cambiano i tempi. Io avevo amiche carissime che dicevano che ogni atto sessuale era uno stupro. In realtà gli uomini dovevano rivedere completamente tutto quello che è il rapporto alla donna. Benissimo. Certo. Però, Sì, dico, però è anche da considerare che 5,6 miliardi di giro d'affari all'anno sono tanti soldini, non credo che sono sarà tanti. Quello è il vero problema, secondo me. Si ricorda il governo che cosa ha dovuto fare per trovare i 4 miliardi in sostituzione della tassa dell'IMU? Insomma, veramente abbiamo raschiato dappertutto. 5 miliardi in più ci consentono di fare tante cose in un momento in cui c'è veramente seria difficoltà. E poi, ecco, volevo porre l'attenzione su un aspetto che mi sì, siamo in sigla, sinteticissima. Sì, la prevenzione. Introduciamo finalmente l'educazione sessuale nelle scuole. Se ne parla dal 1910, l'educazione alle relazioni affettive. Insegniamo agli uomini che si può vivere un rapporto sessuale alla pari, senza doverle pagare, le donne. C'è tanto lavoro da fare. Poi finanziamo il fondo antitratta in maniera da poter avere strumenti più opportuni, il fondo sulle pari opportunità. Senta, senatrice, la devo fermare perché sennò la sigla.